You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Saluto a tutte e a tutti, questa è Oxygen, la trasmissione di Samarcanda Digital Network dedicata alla musica elettronica ideata e condotta dal sottoscritto Amptech. Ho aperto questa puntata con un estratto da uno degli innumerevoli lavori che il produttore finnico Aleksi Perala ci ha presentato nel 2025, innumerevoli perché siamo oltre la ventina di album prodotti da questo autore che abbiamo conosciuto ai tempi della Reflex, è stato un po' scoperto da Aphex Twin e quindi rappresenta un esempio dell'IDM fine anni 90. Grace 12, il titolo dell'album, il titolo del brano è impossibile da decifrare perché è alfanumerico, come un po' è stata tradizione di Aphex Twin creare dei titoli completamente impronunciabili. Andiamo avanti con un altro autore importante, perché si tratta di una delle figure centrali del suono berlinese, del suono tedesco, della techno, ma non solo, perché è stato capace di contaminazioni con le musiche più disparate, compresa la musica latina. Si tratta di Atom TM, che anche lui è un iperproduttore perché realizza decine di album in un solo anno. L'ultimo che abbiamo intercettato si chiama Rhein Metal, è il nome tra l'altro di un'azienda che produce cannoni e missili, è proprio un'azienda tedesca. Quasi un'ora di suite, noi ne ascoltiamo soltanto un estratto, Atom TM, Rhein Metal. Thank you. ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. Thank you. listen to Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. State sempre ascoltando Oxygen in voce con voi, Amptech. Abbiamo ascoltato questo brano molto cupo, ambientale, ma comunque scuro come atmosfera, di Atom TM, che come vi dicevo è un autore poliedrico che riesce a incastrare l'elettronica alle cose più disparate, data la sua continua residenza in America Latina, in Cile se non sbaglio. È riuscito a fare dischi di contaminazione anche abbastanza spinti tra elettronica e ritmi latini. In questo caso, questo lavoro 2025 che si chiama Rhine Metal, che pare sia ispirato, a partire dal titolo, a quella che è una delle industrie belliche tedesche più importanti del continente europeo, la musica è effettivamente cupa, in qualche modo richiama l'angoscia della guerra e la cupezza di questa industria europea che si sta rinnovando attraverso l'industria militare. Andiamo avanti con una grande artista, probabilmente la più importante cantante che ha interagito con l'elettronica a partire dagli anni 90, un'artista straordinaria, poliedrica, che realizza prodotti multidisciplinari in cui convergono teatro, danza, musica, video. È un artista che ha fatto la storia della contaminazione fra musica elettronica e forma canzone. Si tratta di Björk, che rilascia un album dal vivo con materiale degli ultimi, la produzione degli ultimi anni, che si chiama Cornucopia Live. Quindi si tratta del tour dell'album Cornucopia, registrato appositamente per la Apple Music Live a Lisbona. Cornucopia Live, ascoltiamo due brani: The Gate, che è un brano con un uso dell'elettronica davvero molto ricercato, minimalista ma veramente elegante. I suoni, ascoltate sotto la voce come accompagnano il timbro vocale di Björk, e poi uno dei suoi più grandi successi, riarrangiati con questo combo che sta utilizzando nell'ultimo periodo proprio per accompagnare il tour di Cornucopia. Ci ascoltiamo uno dei più grandi successi di Björk, Isobel. Quindi Björk dal vivo, Cornucopia Live per Apple Music Live a Lisbona. From tutti, oh, su tutti. Oxygen. Listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. My love. full of dust lives a creature called lust. It surprises and scares like me, like me. Questa era Björk, ultimo lavoro dal vivo, Cornucopia Live, quindi il tour che riguarda l'ultimo album con il gruppo che accompagna negli ultimi periodi Björk nei suoi tour, un mix di elettronica, di musica acustica, di musica folk. Björk riesce a far convergere su di sé differenti sia discipline artistiche ma anche differenti influenze. Ricordiamo l'importanza che ha rivestito negli anni 90 nel far convergere l'elettronica alla forma canzone, tanto da essere spesso e volentieri identificata nell'ambiente degli ascoltatori della musica elettronica più che come artista pop, come artista integralmente inserita all'interno dell'emisfero della musica, della nuova musica elettronica. Andiamo avanti con un altro dei personaggi chiave proprio di questa scena, si tratta di Muzik, che realizza un album che si chiama 1979. We'll be right back. You're listening to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Vi ricordo, siete sempre all'ascolto di Oxygen, in voce con voi Amptech. Questa è Music, ovvero Mike Paradinas, oltre ad essere un autore storico della scena britannica, ricordiamo anche una collaborazione con Aphex Twin negli anni 90, ma comunque ha prodotto a suo nome decine e decine di album. Ma la cosa molto importante della sua attività è quella anche di discografico della Planet Moon Records, la sua etichetta attraverso la quale analizza e scopre quelle che sono le nuove tendenze che l'elettronica contemporanea ci offre. Ma andiamo avanti con una di queste nuove tendenze, su Warp Records stavolta. Si tratta di One Tricks Point Never, ovvero Daniel Lopatin, un artista che negli ultimi tempi ha sempre comunque adocchiato un pochino un certo neoclassicismo elettronico, e in questo lavoro, come vi dicevo, proprio esprime questa tendenza in cui dei suoni ambientali quasi orchestrali si incastrano con una manipolazione elettronica molto originale e molto caratteristica del suo stile. One Tricks Point Never a Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Thank you.